nel petto, occhi di tigre in cerca di un tetto. Sul ring si combatte senza paura, la folla esplode come tempesta pura. La luce sfavilla nei guantoni, adrenalina scorre come bolleoni. Ogni colpo un tuono che squarcia il cielo, non c'è spazio per dubbio o gelo. Pugni di fuoco che bruciano forte, ogni secondo una nuova sorte. Colpisce la mia pelle, risorgo dalle ceneri come stelle. Testa alta, non si torna indietro, ogni sfida ha un quadro perfetto. Niente può fermarmi mentre lotto, spirito invincibile in moto. Le note mi guidano come vento, accolgo il destino nel firmamento. Pugni di fuoco che bruciano forte, ogni secondo una nuova. Il destino nel firmamento. Pugni di fuoco che bruciano forte, ogni secondo una nuova sorte. Via, vivi o muori senza esitazione, nel ring trovi la tua redenzione. Benvenuti da Allora del Wrestling e Pino Fascian. Questa sera una nuova intervista, e che intervista! Ritorniamo di nuovo in quota FCW Frontier Championship Wrestling. E con me c'è il ring announcer, l'unico e solo il ring announcer dell'FCW, Big Andrew. Grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Pino, grazie a te invece per l'invito. Grazie. Come stai? Bene? Unico, non c'è male, grazie. Unico e solo, perché mica c'è una controfigura. Davvero, era no, per no, unico e solo, unico e solo. A meno che non è un fratello gemello, è unico e solo. Come si dice, era per rompere il ghiaccio, mi scuso eventualmente con gli utenti per questo siparietto, ma era semplicemente per rompere il ghiaccio velocemente, perché siamo in forte ritardo e me ne scuso sia con Big Andrew che sia con gli utenti. Allora, questa intervista sarà da domani disponibile su gsradio.it e tutte le maggiori piattaforme digitali, poi già da venerdì sera, e io ovviamente mi rivolgo agli utenti che ci ascolteranno in diretta, da venerdì sera sarà disponibile dalle ore 23 su radiowifiofficial.it e prossimamente sarà disponibile poi lunedì dalle ore 20 su deadradio.net. Finendo questa premessa, c'è parecchia carne a fuoco, dobbiamo anche pubblicizzare il prossimo show dell'FCW, dobbiamo pubblicizzare Big Andrew, c'è tantissima roba, invito tutti gli utenti a fare le vostre domande in chat che io poi porrò a Big Andrew. Iniziamo subito con una domanda introduttiva. Big Andrew, come hai fatto il tuo ingresso nel mondo del wrestling? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto ad entrare nell'FCW? Allora, non saprei come risponderti a questa domanda in realtà. Semplicemente sono un fan, seguo specialmente la WWE da quando ero piccolino, insieme a mio padre. È stato lui, mi ricordo, che zappando sui vari canali Sky disse una frase tipo: ah, ma questo è il catch, e si ricordava che all'epoca lo guardava, io mi sono rimasto con lui a guardarlo e sostanzialmente sono tifoso per quello. Come mi è venuta la voglia di iscrivermi alla FCW? Semplicemente mi sono voluto mettere in gioco, ho detto ok, proviamoci, vediamo se questo può essere un gioco che funziona, e piano piano sto raccogliendo i miei piccoli risultati, sperando poi di arrivare a risultati un po' più grossi e sostanziosi, diciamo. Perfetto. Andiamo avanti. Il wrestling italiano ha sempre fatto della tradizione il suo punto di vista. Come riesci a trasmettere il tuo stile come ring announcer sul ring? Ok, come ti poni, allora... Scusami se non sono stato chiaro. Come ti poni verso il pubblico? Ecco, te l'ho precisato. Prego, prego. Ok. Allora, no, penso di essere almeno molto tradizionalista. Cioè, nel senso, inizia lo show, mi presento e cerco di incitare il pubblico per quanto riesca a farlo. E niente, sono un tradizionalista, cioè quando devo annunciare un lottatore so che va prima la provenienza, poi va peso altezza, poi va il titolo, se questo lottatore è campione di qualcosa, il soprannome e il nome del wrestler. Semplicemente seguo questa scaletta e faccio il mio. Non c'è modo di risponderti a questa domanda se non così, sostanzialmente. Perfetto. Negli ultimi anni si sente dire che il wrestling moderno, anni 2000, mettiamolo così, sia diventato troppo mainstream. Per meglio dire, scusami. Cosa rispondi a chi sostiene che ormai il ruolo del ring announcer, un tempo imprescindibile, e qua stiamo parlando, vabbè, The Fink, Howard Finkel, poi vabbè, potrei anche aggiungere qualcun altro, un tempo imprescindibile, ora ha perso la sua necessità, il suo valore? Allora, sono d'accordo, però vi dovete comunque ricordare che il ring announcer, ora non per tirarmela, non sono il tipo, non me ne frega proprio niente, ma il ring announcer è comunque colui che il pubblico lo fa gioire oppure lo fa rattristire, ovviamente in base a come va il match, però è colui che dà la carica al pubblico. Poi ovvio, ce ne sono stati i più bravi e i meno bravi, mi hai ricordato prima, mi sfugge il nome, cavolo, me l'hai detto prima, quello della WWE, Howard Finkel, pace all'anima sua, stiamo parlando, mamma mia, una leggenda però potrei anche dire Tony Schimmel, Justin Roberts, sì, ci siamo, ma Lina Garcia, Mike Rome, vabbè, non la finiamo più, prego, prego, non la finiamo più. No, è vero, perché alla fine, sai cosa, ho scoperto, io faccio Ring Announcer da poco, e ho scoperto che comunque, che vabbè, i lottatori si scambiano i complimenti tra loro per i match, no? Oh, grande, hai fatto questo, tu hai fatto questo, bravo, bello, bello di qua. E gli arbitri anche, mi piace come hai arbitrato, ti ho visto che eri attento, quando ti ha chiamato la cosa sei stato attento, se ne sei andato via, di qua. A Ring Announcer i complimenti non si li fa mai nessuno. Sono veramente pochi i complimenti che si prende il Ring Announcer, quindi capisco ed è giusto, però cioè, anche il Ring Announcer vuole la sua parte, ecco, mettiamola così. Secondo me il Ring Announcer è nel livello di arbitri e lottatori. Spero di averti risposto alla domanda, Pino. Sì, sì, perfetto. Però, come si dice, mi hai messo la pulce nell'orecchio, ovviamente, te la devo fare la domanda, niente di domanda extra, perché non era concordato. Hai mai ricevuto un complimento da un lottatore o da un arbitro, o perché no, anche da un fan? Allora, ho ricevuto complimenti da un lottatore in particolare, non ancora da un fan, e non vedo l'ora che questa cosa succeda, perché se lo dice un fan, allora vuol dire che ho dato al fan quello che voleva. E un arbitro, ora forse non vorrei dire minchiate, ma forse Ref Alex, che so che sarà anche tuo prossimo ospite a fare l'intervista, probabilmente lui mi ha fatto un complimento nello show che abbiamo appena fatto il 22 febbraio. Ah, tra l'altro, Pino, permettimi, Survivor, sì, prego, prego. Permettimi, Pino, ti rubo due minuti, ma secondo me è stato veramente un show fantastico. Ora, ovvio, tiro acqua al mio mulino, faccio parte dell'FCW e tutto quello che vuoi, ma veramente è stato uno show, cioè roba che stava incollato veramente alla sedia tutti e 9 match, un qualcosa di spettacolare, uscito davvero bello bello bello. Big Andrew, anche se tu di sfuggita, perché da poco che ci seguiamo su Instagram, da pochissimo, sai benissimo che l'FCW è stata, è e sarà sempre di casa, anche se personalmente ci seguiamo da pochissimo tempo, quindi anzi saluto pure il buon Andrea Volpato e saluto Giacomo G. Mi sono permesso di prendermi questa libertà editoriale e creativa. Però a questo punto, sempre tornando all'FCW, momento, anzi messaggio promozionale. Saluto il buon Andrea che è arrivata. Ciao Andrea, ciao, ti saluto pure, ti saluto buon Andrea Volpato, te lo metti in sovraimpressione così te ne vedi pure tu, non so se riesci a leggere. Buonasera ad entrambi. Ciao Andrea, grazie di essere passato. Ti stavo dicendo, comunque, messaggio promozionale, prego B. Andrew, messaggio promozionale in quota FCW, prego. Allora, signori, segnatevi la data, perché se veramente facciamo come abbiamo fatto il 22 febbraio, a sto giro viene giù il palazzetto. 22 marzo, sabato 22 marzo, Unfinished Business, sempre al nostro palazzetto, via Marconi a Pero. Ora, non so ancora la carta, non so ancora niente, ma se il livello rimane o diventa più alto di quello che abbiamo fatto a febbraio, ragazzi, è da comprare quel biglietto, è da venire in certa gente, è da godervi lo show, perché veramente ve lo godrete. Completo il messaggio di Big Andrew, ovviamente mi rivolgo a chi ci sta guardando, ci guarda il video, e mi rivolgo a chi ovviamente recupererà la live in un secondo momento in audio. Allora, Unfinished Business, sabato 22 marzo, ore 21:15. Sì, chiedo scusa, Unfinished Business. Poi, esatto. Palazzetto Sportivo di Pero, Piazza Guglielmo Marconi, sempre a Pero ovviamente, Metro Rossa a Pero, poi vabbè, ovviamente per maggiori informazioni rivolgetevi in DM comunque al profilo Instagram delle esatto, FCW. Abbiamo la pagina ufficiale FCW Academy, per qualsiasi informazione scrivete pure e vi sarà per maggiori informazioni, perché non posso fino a un certo punto dare notizie, poi non, con tutti i rispetto, mi piace, come si dice, tirare l'acqua, tirare il mulino e aiutare l'FCW, che sono anche riconosciuto dal buon Andrea Volpato e poi da Giacomo Giglio, però fino a un certo punto posso dare informazioni, poi per adesso rivolgetevi al profilo Instagram dell'FCW, che vi risponderanno il più velocemente possibile. Allora, Big Andrew, torniamo a noi, poi comunque ci sarà sempre spazio per parlare dell'FCW. Allora, durante gli eventi live spesso ci si trova durante gli eventi live spesso ci si trova davanti a situazioni al di sopra delle tue aspettative, comunque imprevisti. Come le gestisci? Ed è mai successo un episodio che non sapevi che cosa fare? Allora, fortunatamente non mi è ancora successo. Ok? Vuoi che sarai che sono Ring Announcer da poco, vuoi che è andata sempre bene, ma fortunatamente non è ancora successo. Anzi, sono uno anche molto che rompe le balle. Cioè, io devo sapere tutto, per filo, per segno. Chi entra per primo, chi vince il match, perché lo vince, se questo deve essere fischiato, se questo deve essere odiato. Sono molto rompipalle su questo, proprio per evitare questa cosa. Quindi è probabile anche che non sia mai successo proprio per questo mio fatto, cioè questo fatto di essere così insistente, così proprio anche rompiscatole, ora fammelo dire, Pino. E quindi non mi è mai successo. Spero che non mi possa capitare mai, e nel caso dovesse succedermi cercherò in qualche modo di trovare la via giusta e ti farò sapere la prossima volta che mi avrai come ospite. Domanda tecnica. Secondo te la tecnologia, tipo gli auricolari o non saprei, diciamo, sì, gli auricolari, perché questi vengono utilizzati dagli arbitri e poi in alcuni casi dai ring announcer, servono ad aiutarvi o sono semplicemente, questo ovviamente nel campo del wrestling italiano, perché per quanto riguarda negli Stati Uniti è fondamentale l'uso degli auricolari, se non si può comunicare, vabbè, col camion della produzione eccetera eccetera, secondo te gli auricolari sono come posso dire, a livello tecnologico possono aiutare i ring announcer, per non parlare dell'arbitro, però nel tuo caso i ring announcer, per non fare gaffe o per migliorarsi per quanto riguarda i vestiti italiani, o sono un di più che onestamente in questo momento siamo nel 2025, per a noi a livello territoriale non serve, lasciamolo agli americani. Spero di essere stato chiaro, se vuoi te la ripeto. No, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Allora, noi auricolari non li usiamo. Non so dirti perché, non, semplicemente non si usano. Ora, io mi trovo bene senza. Vero anche che magari possono essere d'aiuto, perché se un lottatore si dovesse far male e l'arbitro deve avvisare comunque il fatto che deve vincere l'avversario che doveva perdere, e quindi io devo saperlo, chi è in regia deve saperlo che mi deve mettere la musica non del lottatore che doveva vincere, ma del lottatore che doveva perdere. Ora, noi non li usiamo e siamo sempre andati avanti così. Io non capisco l'aiuto che possono dare gli auricolari, ma secondo me non sono così fondamentali, ecco. Nel caso il match dovesse andare nel senso opposto, perché il lottatore che doveva vincere si è infortunato qualcosa, io di sicuro perdo più tempo possibile in modo tale che la regia abbia il modo di cercare la canzone giusta da mettere allo show, e io annuncio normalmente, cercando di mantenere il più possibile la calma e di non far capire al pubblico che in realtà non era uno stressio e era tutto secondo i piani. Ragionamento, come si dice, non fa una grinza. Il tuo ragionamento non fa una grinza. È, come si dice, inoppugnabile. Niente da aggiungere. Allora, il tuo nickname Big Andrew è sinonimo di autorità e passione del wrestling italiano. Non te la faccio proprio come l'originale. Da dove nasce il tuo nickname? E poi, domanda più sul punto di vista come Ringhausen, che cosa ti distingue come Ringhausen rispetto a un normale speaker? Che, come io ti ho detto privatamente, prendiamo ad esempio lo speaker dello stadio di calcio, che deve solo annunciare i calciatori, al massimo annuncia i gol, ma poi fa poco o niente. Se vuoi te la rifaccio, se non sono stato chiaro. No, sei stato chiarissimo invece. Allora, Big Andrew in realtà è un nome che mi è stato dato, e mi è stato dato da un altro lottatore della CW, che ringrazio in primis e saluto in secondis, che è Mickey Hunter. Io non mi ricordo la scena, non mi ricordo il motivo, non mi ricordo il perché, ma un giorno Mickey mi guardò e mi fece: io ce l'ho il nome per te, tu sarai Big Andrew. E non so per quale motivo questa cosa mi è piaciuta talmente tanto, me lo sono sentito mio, che è diventato a quanto pare il mio ring name. E quindi ringrazio Mickey per questo, è un nome che mi si addice, proprio lo sento mio. E per quanto riguarda invece la tua seconda domanda, come posso dirti? Allora, cioè alla fine sono un comune ring announcer. Non devo essere io a rubare la scena. Io sono parte dello spettacolo, non sono lo spettacolo. Quindi io semplicemente faccio il mio, senza strafare, senza aggiungere cose che mi devo inventare all'ultimo secondo e poi impappinarmi così improvvisamente. Io semplicemente faccio il mio, quindi molto generico, se vogliamo, anche molto noioso, se vogliamo, però alla fine è quello che funziona. cioè tu non devi rubare la scena a nessuno, la scena la devono fare gli arbitri, la devono fare i lottatori. Quando un giorno dovrò rubare la scena non sarà più da ring announcer, ma sarà quando il buon Giacomo Giglio mi farà debuttare come lottatore, e allora lì potrò dare il mio. Big Andrew, ovviamente, perché cambio ovviamente in corso, perché in alcuni casi vado a braccio, ma questo l'hai capito. Non l'abbiamo precisato all'inizio, che in effetti tu nasci come wrestler, come, per meglio dire, aspirante wrestler, perché si stai ancora allenando. Catapultato poi, esatto, come ring announcer, spero di essere stato abbastanza chiaro e preciso. Dovrei aver rispettato quello che mi hai detto, perché avevo fatto pure una gaffa, però credo di essermi riuscito a redimere. E ti voglio chiedere, innanzitutto, parlaci dei tuoi allenamenti come preste, e a che punto anche sei, cioè se ti manca, per dire, ad occhio e croce un anno per poter esordire. E poi parlaci pure di Giacomo Giglio come allenatore, che ci fa sempre piacere. Prego, prego. Ok, allora sì, mi sto allenando da quasi un annetto come lottatore. Perdonami, lo sai che vengo da una febbre, per cui non sto benissimo. Allora, è da circa un anno che mi sto allenando come lottatore. Ti blocco solo un secondo, no, ho fatto così, e questo ti fa onore. E ti ringrazio ancora di più per la tua gentilezza, professionalità e disponibilità, che nonostante, diciamo, non sei, cioè vieni comunque da febbre, mi sembra che hai detto, comunque non l'hai voluto rinviare, questo ti fa onore e ti ringrazio. Namaste. No, prego, ma che ti ho interrotto, ma anche per rispetto nei tuoi confronti, nel rispetto di chi ci guarda e ci guarderà, e per rispetto di chi ti ascolterà, che bisogna rispettare una persona professionale, gentile, disponibile, che nonostante tutto non ha voluto rinviare, e questo lo apprezzo. Prego, prego. Stavi rispondendo e ti ho interrotto, ma era necessario, prego. No, Pino, anzi, cioè, troppo gentile le tue parole. Volevo essere presente oggi, non ti avrei detto di no. Ad ogni modo, dicevamo, mi sto allenando da wrestler, evidentemente non sono ancora pronto a debuttare, anche se in realtà un match in cascina ce l'ho, che abbiamo fatto in modo che una storyline combaciasse con il fatto di essere un ring announcer. Cosa succede? Che ad un evento, ora non mi ricordo quale, serviva comunque staff per la regia e tutto quanto, e chiesi a Giacomo, Jack, vabbè, io lo chiamo Jack, ma posso fare da ring announcer? È stata proprio una mia idea, così proprio sparata. Ma cioè, che l'idea era piaciuta e mi ha detto sì, come no, certo, anzi, ci farebbe piacere, avremo una persona che sta lì ad annunciare i lottatori. Per cui è nata così. Quanto manca per il fatto che possa mettere il microfono al chiodo e possa mettere finalmente gli scarpini, non te lo so dire. Spero il più breve possibile. Non perché non mi piace fare ring announcer, anzi, mi piace, ma vorrei combattere. Cioè, ho 30 anni, la mia carta d'identità non è così giovane, e quindi cioè, spero di farlo il più presto possibile. Di Jack. Allora, io sono sempre stato in FCW, non ho la conoscenza per dirti, ah, guarda, sono stato in questo posto piuttosto che in quest'altro, piuttosto che in questo. Quindi l'unico lottatore nel wrestling che ho avuto è Jack. Quindi, ok, non ti saprei dire se è meglio lui di, se lui fa più schifo di, o quant'altro. Io comunque da quando sono arrivato in FCW, sia i lottatori che erano in FCW e sia lottatori di altre federazioni, di Jack me ne parlano bene e so il motivo, perché lui, ora ti ripeto, non ho l'esperienza per dirti sono stato di qua, sono stato di là, posso giudicare delle cose, ma capisco perché queste persone mi dicono che Jack sia il numero uno, te lo giuro, non sapendo come allena Tizio, come allena Caio, come allena Sempronio, so per certo che Jack è il numero uno, perché le cose te le tira fuori, poi per mio modo personale di vedere le cose, se una cosa non sei capace a farla, la riprovi 100 volte, e se non arriva a 100, arriva a 101, non ti preoccupare, e Jack te la fa provare 102, 103, 104, e cosa più importante di tutte, che magari non gli dico spesso, è che gli voglio bene. E questa è la notizia, a parte scherzi, saluto sempre, è un grande Giacomo Giglio, non glielo dicono in tanti, e come si dice, non lo apprezzano abbastanza, parere mio personale, non lo apprezzano abbastanza, ripeto, parere mio personale, che può essere condiviso. Guarda, sarò che io sono in FCW, per cui parlano con il freno tirato a mano, però a me meno sempre e solo parlato bene di Jack, e se qualcuno venisse a parlarne male non ci crederei, prendimi per stupido, prendimi per pazzo, prendimi perché non ci crederei. No, ma a parte che... No, ma per un semplice motivo, vabbè, risalto tante di quelle volte, che quindi, capito, però non... Come si dice, non è un... Non volevo creare un dibattito, capito? Non so no, anzi. Se sono stato chiaro, capito? No, volevo fare... Era un complimento, che però era un complimento, come si dice, amarognolo, capito? È un complimento, e poi sì, dopo certo. Ho aggiunto non lo apprezzano abbastanza, mancherebbe pure, mi sta dando di quelle volte sempre gentilissimo nei miei confronti, pensa tu, si è fatto pure cioè. Andiamo avanti, poi dopo aspetta, ti faccio questa domanda e poi dopo messaggio promozionale, però prima la domanda. Molti critici affermano che il wrestling di una volta aveva un'anima e che oggi sembra mancare. Se per caso, cioè, ti preciso, l'anima intendiamo da quando praticamente noi l'abbiamo visto, l'abbiamo cominciato a vedere tutti quanti in Italia, quindi diciamo fine anni 80, inizio anni 90, e diciamo, e possiamo anche arrivare fino praticamente all'arrivo dell'Attitude Era, che poi è stato il momento, diciamo, che il VES per quanto riguarda la WWE ha completamente svoltato, diventando, diciamo, superando i limiti, è diventato per certi versi, da una parte superando i limiti e da una parte diventato un poco troppo commerciale. Poi nel corso degli anni, specialmente la World Wrestling Entertainment, è andato un poco troppo vicino, cioè alla ricerca degli sponsor, si è un poco troppo convertita, non peraltro è un'azienda, un business, non è wrestling, è sport entertainment. Precisiamo, tu giustamente mi chiederai che cosa c'entra con wrestling italiano, tu che cosa faresti per salvaguardare l'autenticità del wrestling, e tornando poc'anzi a quello che hai detto prima, cosa trovi nell'FCW e nella figura ovviamente diciamo Giglio, perché che salvaguardia, sì, così si dice, l'autenticità del wrestling. Credo di essere stato chiaro. Se vuoi te la faccio meglio. Se me la modifico allora, un pochettino, fino ti ringrazio. Colpa mia allora, chiedo venia, scusami, colpa mia, non volevo fare... Perdonami, magari sono io che non ho capito. no, il più largo possibile, e poi come si dice, mi sono arrampicato sugli specchi, mi sono legato mani e piedi. Allora, ad oggi siamo nel 2025, il wrestling in generale ha perso la sua, il wrestling modello ha perso la sua autenticità. Noi, noi diciamo e pensiamo che il wrestling, da quando noi l'abbiamo visto, l'abbiamo incominciato a vedere fino, diciamo, all'Attitude Era, era più spontaneo, più genuino. Invece dall'Attitude Era in poi ha perso il suo valore, perché si è andato troppo, si è superati i limiti e si è andato troppo appresso agli sponsor. Non peraltro la WWE, Sport Entertainment è un'azienda, non è solo wrestling, è tutta una branchia, un ramo di, tra, vabbè, cinema, vabbè, quando poi, vabbè, poi con l'Endeavor, vabbè, non si può parlare della WWE. L'FCW quanto salvaguarda, quanto protegge l'autenticità del wrestling? Allora, Pino, se posso, ti rispondo con una domanda. Sei un appassionato di calcio, per caso? Sì. Posso chiederti chi è il giocatore tuo preferito al mondo? In questo momento? Nessuno. No, no, proprio il tuo preferito. Ti avrei risposto... Il numero uno. Tra i vari Messi, Ronaldo, ma attualmente proprio il tuo preferito da buon napoletano, quando pesteccò agli altri, se no il discorso sarebbe lungo, dico e dirò sempre Maradona. Certo, ma mi hai fatto una domanda, dici Maradona? Ma lì volevo arrivare, lì esattamente volevo arrivare. Perché mi hai detto Maradona? Eppure mi hai citato di Messi. Perché anche Messi non Ronaldo, anche Ronaldo. Messi e Ronaldo sono business, c'è una bella differenza. Maradona invece, con tutti i suoi errori, che però non ha fatto male agli altri, solo a se stesso, è rimasto proprio nei suoi errori genuino. Invece Messi e Ronaldo ai nostri occhi sono genuini, per realtà sono delle macchine da guerra, sono delle aziende come la WWE, se la vuoi mettere su questo punto. Prego. Tu mi hai detto Maradona. Non per il fatto... Anche Maradona era business, eh? Tu mi hai detto Maradona perché Maradona a te ti suscita ricordi di quando eri piccolino. Sì, sì. Mi hai fatto una domanda... Mi hai citato Messi... Mi hai citato Messi, mi hai citato Ronaldo, sai che sono giocatori forti di qua di là. Quindi questo cosa vuol dire? Questo che noi siamo sempre condizionati da un nostro ricordo infantile. È ovvio che l'Attitude Era era meglio rispetto ai giorni nostri, perché abbiamo, come posso dire, un percentimento di quella cosa che... Non so spiegarti perché, ma per noi era migliore. Ora è vero, è diventato tutto business di qua di là, la WWE adesso che si è messa insieme all'UFC, mi sembra. Vabbè, vabbè, la proprietà è l'Endeavor, che è la stessa proprietà. Vabbè, mi hai nominato e te lo faccio veloce. L'Endeavor, che è la proprietà dell'UFC, esatto. La WWE, e hanno creato una successiva società che si chiama la TKO per gestire i due business. Esattamente. Che la TKO poi basta vedere anche adesso che è su Netflix e tutte queste cose qua. Signori, il wrestling è business, ma tutto lo sport è business. Ecco, non facendolo apposta, anche se, come si dice, mi stai aiutando e ti ringrazio, non so se chi sta facendo la spalla di chi. Se tu stai facendo la spalla mia o io la tua, stiamo facendo un po' tutte e due. Poi se fosse uno spettacolo comico, per il fatto io voglio essere il capo comico, non posso essere la spalla tua. Comunque lasciamo stare questo, però a parte gli scherzi, noi stiamo cavalcando lo streaming. La mia domanda provocatoria: siamo pronti in Italia o siamo troppo indietro? Questa è la domanda provocatoria che può essere generale, riguarda tutti, non riguarda Big Andrew come non riguarda specificatamente questo o questa, è in generale. Se vuoi te la rifaccio meglio. No, ti rispondo. Un giorno, aspetta, la completo, potrebbe un giorno arrivare sul Thriller che è il, o l'ex fit, che quello è il massimo che possiamo aspirare per federazioni indipendenti, perché lì ci sono la creme della creme delle federazioni indipendenti. Vabbè, poi ci sarebbe pure Independent TV, che è un'altra piattaforma abbastanza conosciuta delle federazioni indipendenti. Prego. Allora, in Italia non siamo ancora pronti, però dobbiamo fare in modo di muoverci. Perché, ragazzi, io ho poca esperienza, io non ho visto molti lottatori italiani al di fuori dei miei lottatori dell'RCW, ma, raga, non siamo così lontano da lottatori... Magari gli inglesi sì, gli inglesi sono veramente di alto livello, ma non è che siamo poi così lontano da scozzesi o da spagnoli o da austriaci, che so che anche in Austria, da quello che ho capito, menano. Noi siamo un buon livello, ma ci dobbiamo... Esatto, ma cazzo, ma ci dobbiamo muovere, perché, raga, non abbiamo da temere, cioè veramente testa alta tutti quanti, perché abbiamo veramente dei lottatori nostrani che sono tanta roba, ma tanta roba, che all'estero non sfigurerebbero, anzi avrebbero piacere ad avere quel lottatore, per cui è una cosa che ci dobbiamo muovere, e in fretta anche. È così. Ha fatto un bello spot, comunque bello spot. Perdonami Piro, però è vero. Adesso perdonami, ma dico, ho detto che non è vero, è risposto come volevo io. Okay, ho detto, okay, che okay, un bello spot, però mica potevo fare, come si dice, i salti di gioia, perché praticamente no, chiaro. No, che ti volevo dire, no, vabbè, comunque sono perfettamente d'accordo con te, non voglio allungare, perché ci sarebbe pure da dire dove ci stiamo appoggiando ancora, che però è soggettivo, e non è che so io che l'interpreto, ci stiamo appoggiando troppo chi su Twitch e chi ancora su YouTube, invece di fare una diciamo un passo in avanti. Comunque ci arriveremo, e con questo concludiamo però il discorso, e ti ringrazio per aver risposto. Grazie Big Andrew. Messaggio promozionale, prego. Signori, il messaggio promozionale vuole essere per lo show che avremo il 22 marzo, se non ho capito male. Pino, mi senti? Sì, ma pensavo che stavi andando avanti, perciò io non ti interrompevo. Comunque, vabbè, stavo zitto, perché allora... Perdona, ho capito male. Cosa succede? Sono un idiota, può capitare. Adesso. Allora, sai che c'è? Facciamo così. Facciamo pari e patta, e ti faccio io il messaggio promozionale, poi il prossimo lo fai tu, però. Va bene. Sabato 22 marzo a Pero, al palazzetto sportivo di Pero, piazza, no, sto leggendo, purtroppo non mi posso ricordare a memoria, piazza Guglielmo Marconi, ore 21:15 circa, mi raccomando, se siete interessati, è una grandissima occasione, e poi messaggiate il profilo Instagram, comunque i profili social, Facebook, comunque i profili social dell'FCW. È un'occasione da non perdere. E cosa c'è di meglio che incontrare Giacomo Giglio, Big Andrew, Alex Crimi, il Marchese, poi gli altri posso nominare, forse spero che ci saranno, no? Perché non siamo a conoscenza della carta Caos il Distruttore. Poi vuoi nominare qualcun altro, anche se a random, perché preciso la CAD è soggetta a variazione e non siamo a conoscenza di chi parteciperà. Io mi sto assumendo le responsabilità di nominare qualcuno che potrebbe pure all'ultimo non partecipare, quindi io mi assumo le responsabilità. Bigredio, se vuoi nominare qualcun altro a random, ovviamente, perché tu non ti assumi responsabilità, ma solo per ingolosire chi ci guarda e chi ci ascolta, per farlo partecipare, prego. No, beh, abbiamo tanti lottatori validi, ma Mickey Hunter, Alex Plosive, lo stesso Claude, e poi guardate che come me che si allenano siamo in tanti, eh? Ha cominciato a esordire Black Bull, che sembrerebbe avere un futuro bello prosperoso. C'è un altro ragazzo da tenere d'occhio, Alessandro, che ora non so come si vorrà far chiamare, ma lo vedo nel mento, è uno che ci dà. Per cui potrebbe essere il momento di debutto anche per qualcuno di noi, cosa non possiamo sapere. Horus a me personalmente è un lottatore che strapiace. Poi adesso che è in faida con Mickey, bisogna vedere come va la situazione. Secondo me ci saranno delle belle. Vabbè, preferisco non mettere in difficoltà, perché volevo entrare un po' più specificatamente nelle storyline, però evitiamo, se no mi bacchetta Giacomo Giglio, perché volevo entrare un po' più, capito, sai, un po' più nelle storyline, però preferisco evitare. Anche se comunque Horus interessa, vabbè, poi ho saputo pure, ovviamente, vabbè, ma è pubblico sui vari video dell'FCW, vabbè, quello che è successo all'ultimo show. Però andiamo avanti. Ti voglio anche chiedere, sul ring, la tua voce è il collante che ovviamente unisce il pubblico, il prezzo per meglio dire, con il pubblico. Cioè tu sul ring comunque, quando annunci, stai vendendo un prodotto, ovviamente. Come riesci a mantenere quella professionalità quando sei sul ring? Perché comunque sei, ne abbiamo parlato prima, sei comunque un fan, allora logicamente uno viene trasportato. E come riesci a mantenere la professionalità? Esperienza. Cioè, l'unica cosa che ti posso dire qua è, anche per quanto sia piccolina, esperienza. La prima volta che ho chiesto se potevo fare il ring announcer, inutile dirti che me la facevo sotto. E chissà quante cose avrò sbagliato a dire, a pronunciare, o anche il tono di voce. È una cosa che ti devi fare le ossa. Semplicemente, più ti fai le ossa, più non hai paura, più ti viene naturale. È semplicemente così. Tanta esperienza e tante ossa. Pratichi qualche altro sport o solo il wrestling? Ovviamente extra vita quotidiana. Pratichi qualche altro sport? Allora, non lo sa nessuno, ma sono un grande... Sì, certo. No, che per molti non è considerato sport, ma sono un abile giocatore di freccette, che con il wrestling non c'entra assolutamente nulla, però mi dilego a giocare a freccette. Ti devo dire che... Guarda, fino a prova a giocare è uno sport. In Italia praticamente è poco conosciuto, lo consideriamo un hobby, ma nel Regno Unito, se vai in Regno Unito, è seguitissimo. Cioè, esatto. Quindi per noi lo consideriamo Regno Unito, un hobby. In Olanda. Anzi, no, più che un hobby, un'attività inutile, ecco, usiamo proprio, siamo proprio, come si dice, prendiamo proprio la situazione proprio di petto. Nel Regno Unito praticamente non dico che è uno sport nazionale, ma poco ci manca, ci sono, che poi vabbè, non è che dovrei fare pubblicità, però tanto è sotto gli occhi di tutti, c'è Dazon che trasmette una continuazione delle freccette, quindi A me piacciono, Pino, non so cosa dirti, ma a me invece piacciono tantissimo. Da quando le ho viste in televisione mi ho preso il mio bersaglio, le mie freccette, e ogni tanto do qualche tiretto. È legittimo, però non per polemizzare i tuoi confronti, ma come a te piace le freccette, a me piace intervistare, come vedi. Certo. Quindi, se io denigrassi le freccette che ti piacciono, denigrerei anche me stesso. Quindi, come vedi, siamo sullo stesso piano. Che le freccette sono comunque uno sport nazionale nel Regno Unito, in Olanda, mi sembra pure forse in Svezia, devo controllare un po', però sono uno sport, punto e basta. Mentre intervistare a chi piace, a chi si sa vendere lo fa anche meglio, invece a me mi piace. In questo momento sto facendo ring announcer, per cui non dico che è un lavoro simile al tuo, ma ci sono delle somiglianze più o meno simili tra i nostri due lavori. E la professionalità? Non devi farti trasportare troppo. Ho detto devi mantenere la professionalità. Non ti devi far trasportare troppo, e ti fa trasportare è solo perché stai vedendo un prodotto. Più ti fischiano se per caso fai una gaffa, io ti auguro il meno possibile. O ti applaudono, che significa? Che stai vendendo bene il prodotto. Certo. Credo di essere stato chiaro. Cioè, quindi ripetiamo, guardate le freccette, vi piace, guardate, vi piace, dico una cosa che è inutile, vi piacciono i Monster Truck, guardate i Monster Truck, e basta, nessuno, cioè, c'è libertà di pensiero. Quando ci toglieranno la libertà di pensiero, a quel punto saremo tutti quanti a guardare i prezzi, a guardare... Adesso apro una piccola polemica, riprendiamo, non ti preoccupare. Una piccola polemica, poi guarderemo semplicemente solo la World Wrestling Entertainment. Finché c'è la libertà di parola e di pensiero, possiamo guardare tutto quello che vogliamo. Posso guardare a Big Andrew, quando fai Ring Announcer, posso guardare a me stesso allo specchio, posso guardare a un altro annunciatore, senza pregiudizio e con rispetto, finché c'è la libertà di parola e la libertà di pensiero. Quando poi finirà quello, non guarderò più a Big Andrew e guarderò a Mike Rome, a Justin Rope, magari a Big Andrew continuiamo a guardarlo, che è bravo, sa il fatto suo, sai, ecco, magari a Big Andrew continuiamo. Altra provocazione, venditi il tuo prodotto, dimmi perché dovrei venirti a vedere. Per venire a vedere me? No, tu non devi venire a vedere me, tu devi venire a vedere lo show che ci sta dietro, e ti divertiresti un casino, perché siamo veramente atleti validi in primis, dove raccontiamo per quanto c'è possibile delle storie, per cui cerchiamo di mandare avanti le storyline, quindi è un motivo anche per farti venire lo show dopo. E poi cioè, è uno show per famiglia, ho visto lottatori che sono andati dai bambini a far tirare le chop ai lottatori contro cui stavano combattendo, e si sono divertiti un mondo. No, tu non devi venire a vedere me, cioè, ma tu non devi neanche andare lì per vedere Giacomo Giglio, tu non devi neanche andare lì a vedere Crimi, tu devi andare lì a vedere lo show, proprio tutto l'insieme. se entri con questa logica, ti assicuro, uno, che ti diverti, e due, che verrai anche la volta dopo, garantito. Touché, in realtà hai risposto come volevo io, e non l'hai capito, hai risposto come volevo io, e non l'hai capito. Comunque ti complimenti, perché ti sei saputo vendere, anche se non l'hai fatto apposta, però. E risposto come volevo io. Vabbè, ma grazie. Le migliori risposte sono quelle che tu non sai di aver dato, capito? Tu l'hai dato di pancia, okay, pure, ma in realtà hai dato la risposta che io volevo avere. Non so se hai capito. Comunque, scusami. No, cioè, hai ragione, nel senso, ho dato la prima risposta di pancia ed è stata quella. Cioè, semplicemente. Sabato 22 marzo, ore 21:15 circa, Unfinished Business, il prossimo show dell'FCW, Palazzetto Sportivo di Pero, Piazza Guglielmo Marconi. Non dimenticate, per tutte le maggiori informazioni, rivolgetevi al profilo Facebook, al profilo Instagram, comunque sui social dell'FCW. Grazie ancora, Big Eddie. Riprendiamo. Grazie. Siamo agli scorci, non ti preoccupare, però grazie alla tua genuinità, grazie in parte, un 40% me lo devo prendere pure io, quindi 60% di merito, 40% di merito. Ma no, è sempre 50-50. Sono andato a braccio e purtroppo te ne sei accorto pure tu, però per equilibrare l'intervista e per, anche se non l'ho fatto con cattiveria, però per metterti in difficoltà, purtroppo ci sono riuscito, te la sei cavata benissimo, ma te la sei cavata come volevo io, perché se non te la fossi cavata, non dico che ti avrei fatto il contraddittorio, però mi avresti visto un poco fare qualche smorfia, ma invece hai risposto come volevo perfettamente io, e ti ringrazio. Continuiamo. Allora, i tuoi allenamenti da preste e ovviamente il tuo ruolo da ring announcer sono ovviamente costellati di momenti sì e momenti no, come potrebbe essere pure, non lo so, queste, dammi, diciamo, abbonami come momento comedy, tipo mi si è salciata la scarpa, però devo fare l'annuncio lo stesso e non me ne importa. Comunque possono essere costellate momenti positivi e momenti negativi. Ci puoi raccontare qualche episodio o aneddoto che puoi condividere, sia come allenamenti di wrestler o come ruolo di ring announcer, anche il più stupido, però che si possa dire, tipo la scarpa slacciata, o per dire dovevo mettermi le lenti a contatto, sto dicendo delle fesserie ovviamente, delle lenti a contatto, ma mi è caduta da contatto, però dovevo fare l'annuncio e l'ho fatto lo stesso pure senza una lente a contatto. Ovviamente sto dicendo delle stronzate, non me le volere e non me le vogliono chi guarda e chi ascolta, ma è solo per esprimermi meglio. Prego. No, allora, due cose divertenti magari ce l'ho. La prima, in allenamento, se sei stanco, non sederti su un cavolo di paletto. Cioè, perché sicuramente arriverà qualcuno e ti farà una cannonball, e ti farà, adesso non mi viene la mossa che faceva Umaga, non la Samoan Spike, arca miseria, mi sfugge il nome, la Samoan Spike, la Samoan Drop, no, quella che ti faceva all'angolo, vabbè, chiamavo la Sting Face per semplificare, la Sting Face di Rikishi, diciamo la Sting Face. Perché ma no, perché la Sting Face è prolungata, invece Omaga si lanciava direttamente e ti colpiva, vabbè, chiamavolo, si colpiva, chi mica una, chissà che parola. Prego. Io sostanzialmente non è in allenamento, ho scoperto questo, se sei stanco, comunque sia, non ti cazzo sedere su un angolo, perché arriverà sempre qualcuno che dovrà fare quelle cose lì e dovrai prenderle da tutti voi. Invece per quanto riguarda Ring Announcer, sai, sono magari dei personaggi che devono fare gli heel, e magari cosa, per dire, ti lanciano la giacca, o io che sono pelato, no? C'è sempre qualcuno che mi deve toccare la pelata, me la deve baciare, mi dà fastidio. Però non saprei mai come comportarmi, perché devo avere un ruolo professionale, sai? Quindi sono lì che lo guardo come per dire: levati, stronzo, cioè. Ma sono comunque momenti divertenti e ci ridi di sopra. No, comunque sono andato a cercare perché volevo essere sicuro. Comunque la Samoan Bulldozer, comunque. Potrebbe. Perché la Samoan Spike è col pollice. La Samoan Splash pollice, è esatto. Si lanciava dal paletto, la Splash, ragazzi. Sì. E la Bulldozer quando ti colpiva, diciamo, all'angelo. E potrebbe. Vabbè, insomma, se mai dovessi fare un allenamento in FCW, se sei stanco, non sederti su uno dei quattro angoli. Non lo fare mai. Esperienza mia. Eh sì, andiamo avanti. Allora, fai parte dell'FCW e a tuo modo sei anche tu custode della tradizione dell'FCW, che ricordiamo è una comunque delle federazioni più longeve in Italia. A proposito, ovviamente tornando sempre all'FCW, non ci sembra che è un programma filo FCW, no, vero? Non ci sembra. No, ovviamente. No, a me no, solo l'impressione. No, non mi sembra. No, mi sembra. Stiamo solo cazzeggiando qua e là. Sì. Vorrei brevemente, ovviamente non mi sembra che ci sia l'ufficialità della data, però comunque ci sarà, come al solito, l'anniversario, comunque, non mi ricordo chi era. 20 anniversari, mi sembra, dell'FCW. Saranno 20. Si sappia, no, giusto, saranno 20 anni. Sì, che... Ah, scusi, no, vabbè, stavo... Colpa mia. Ignorantemente stavo confondendo. È presente che tu dai un nome allo show indipendentemente da quanti anni passano. Capito? Invece è proprio così, perché... Ah, sono ok, proprio... ok. Capito? Ignorantemente, capito? Allora pensavo che tu mi dicevi: no, hai sbagliato, perché si chiama così, però in realtà sono più anni, capito? Pensavo che mi correggessi, capito? Ah, ok, Vabbè, allora comunque. Ah, no, mi sono come al solito spiegato male, vabbè, che ti chiedo scusa. E comunque, vabbè, mi sembra già da Survivor Series, sì, scusami, Survivor Series, scusami. Poi, mia piccola gaffa, iniziare, mi sembra, la Road to 20 Anniversary, se non mi sbaglio, o precedentemente, scusami, da Happy New Year. Allora, sì, prima c'è stato Happy New Year, New Year. c'è stato Survivor City, ora non mi ricordo. No, no, Ora non mi vabbè, ricordo la se l'anniversario. La vabbè, tu intendi la data, però mi sembra che non è stata ancora annunciata. No, vabbè, è solo la Road to 20 Anniversary, però mi sembra che non è stata ancora annunciata, capito? No, quello che stavamo conversando era solo il fatto da quando sarebbe iniziata la Road to, se già da Happy New Era o se da Survivor City. Vabbè, queste sono, come si dice, alla Totò, che credo che tu avrai visto qualche film del Principe Antonio De Cussi, di Totò, sono pinzellacche, colpa mia. Come Comunque la mia domanda è questa: facendo parte dell'FCW, tu sei comunque a tuo modo un custode della tradizione dell'FCW, perché è una comunque delle federazioni più longeve in Italia, e su questo non ci piove. Cosa adesso ti voglio provocare al massimo, ti voglio portare oltre i limiti, voglio portare oltre i limiti in Big Andrew. sono Nel pronto, dimmi tuo tutto. il tuo onore, onore come ovviamente parlando a Riganhauser, non parlando alla persona ovviamente, come credi di portare avanti l'integrità di preciso e il buon nome dell'FCW? Come pensi di rappresentarla la federazione? Se vuoi te la ripeto, No, non c'è bisogno. Allora, innanzitutto spero che... È provocatore, ma io mi difendo. Sì, ma... Mi difendo bene. Di personale, non alla persona che non ho il piacere di conoscere. Mi dispiace. Prego. Sì. Tocca a te. No, allora... Fino a quando sarò ring announcer cercherò di portare serietà in primis. Se poi c'è magari da fare un momento comedy, disposto a farlo, sempre per il bene della federazione. Onestamente non voglio che la cosa della ring announcer duri troppo, vorrei veramente cominciare ad avere una scrittura per un mio eventuale personaggio e un mio eventuale booking. Come lo farei? Lo farei portando la brava persona che sono, o che spero di essere quantomeno. Cioè, l'educazione innanzitutto, la serietà, la disciplina, portando valori che possono far crescere ancora di più, anche se di piccolo, ma se possono far crescere ancora un pochettino di più l'FCW, disposto veramente a tutto. No, il buon Andrea Volpati in chat mi ha riportato la precisazione. Ti ringrazio, Andrea. Io purtroppo non me lo potevo ricordare. Allora, precisato che 20 anniversary sarà il 17 maggio, quindi anche mi rivolgo a tutti gli utenti che poi ascolteranno, guarderanno l'intervista. Allora, il mese prossimo, poco meno di un mese, ci sarà Unfinished Business. Poi non dimenticate 20 anniversary, il 17 maggio, sempre appena. Comunque tra poco poi ricapitoleremo. Andrea, grazie. Allora, penultime due domande, e poi rimangono solo i titoli di coda, i social media. Allora, tornando al wrestling italiano, cosa consiglieresti? Ti cambio leggermente la domanda. Ritornando al wrestling italiano, cosa consiglieresti a un lottatore che vuole intraprendere, cioè a un giovane che vuole intraprendere la carriera di lottatore? Oddio Pino, io perdonami, ma non mi sento in grado di rispondere, nel senso sono l'ultimo degli arrivati e non ho l'esperienza e la cultura per dirti dovresti fare quello, dovresti fare quest'altro. Ti posso rispondere... La cambio, no, ti blocco. E te la cambio. Cosa consigli al wrestling italiano in generale, che sia di migliorare, che sia di sapersi vendere in generale? Prego. Che dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo semplicemente muoverci, perché veramente non siamo così, a livello di lottato almeno, non siamo così lontano da irlandesi, austriaci, non siamo così lontano. Ragazzi, bisogna semplicemente crederci di più, supportare il wrestling italiano, quindi vedere agli show del wrestling italiano e farci pubblicizzare meglio. Perché ragazzi, non abbiamo nulla che ci manca rispetto ad altri paesi. Forse a livello europeo, forse soltanto l'Inghilterra, ma perché lì è un altro mondo, lì è il wrestling è come andare in Giappone, ci sta, va bene, l'Europa è il wrestling, è il Regno Unito, e lì non ci sono cavoli. Ma ragazzi, ma possiamo benissimo essere veramente al gradino 2, al gradino 3, non al gradino in fondo. Dobbiamo semplicemente muoverci perché abbiamo lottatori validissimi. Io ora spingo sempre acqua al mio mulino, ma Giacomo Giglio, se va da qualsiasi parte, fa il culo a chi vuole. Lo stesso Crimi, che tra l'altro saluto, so che è 3 anni che lotta, ma può fare il culo dove vuole. Ci dobbiamo soltanto muovere, perché non abbiamo nulla da temere a nessuno, solo questo. Allora, rimangono, vabbè, i tuoi social e poi dopo, vabbè, il messaggio promozionale mio, tuo e chiudiamo. Prego, i tuoi social. Allora, non mi sono... Dove ti posso supportare e sopportare? Scusa, me lo devi, prego, prego. Allora, più che sopportare me, che comunque vi lascio il mio sito Instagram, il mio profilo Instagram, sito web, OnlyFans, ciao, anche pure OnlyFans, prego, prego. Come ben sai, non sono un grande fan di questi social. No, il mio profilo Instagram è il mio nome è reale, Andrea Tervito, ma piuttosto che venire a supportare me, andate su Instagram, andate su Facebook, andate su TikTok che la stiamo aprendo e scrivete FCV Academy e andate a seguirci lì piuttosto. Oltre ovviamente a Pino Fasciano 79. Grazie, grazie. Allora, un momento solo io e poi di nuovo messaggio conosco. Allora, questa intervista sarà ancora disponibile ovviamente su Twitch per chi se la vuole recuperare e non sapete che cosa vi state perdendo. Quindi vi invito a recuperarla, non sapete veramente. Poi sarà disponibile su gsradio.it e sulle maggiori piattaforme digitali. Poi già, per chi ovviamente sta guardando il primo passaggio da venerdì 28 febbraio dalle ore 23 su Radio Wi-Fi Official. .it dalle ore 23 sarà già disponibile questa intervista in audio, poi tra 2 settimane sarà disponibile in prima serata prime time di lunedì ore 21 su daddyradio.net, quindi non potete inventarvi scuse per non ascoltare o per non guardare l'intervista a Big Andrew. Se non lo fate, non sapete che cosa vi siete persi. Comunque, dopo queste premesse, ultimo messaggio promozionale. Prego, Big Andrew, ce la fai? Ci sei? Secondo? Prego. Ce la faccio. Mi dispiace, devo avere io l'ultima parola. Quindi prego, prego, grazie ancora. Prego, è giusto. Signori, sabato 22 marzo. Pero, Palazzetto Sportivo, Guglielmo Marconi, ci sarà il nuovo evento della FCW. Venite numerosi perché se facciamo come abbiamo fatto a febbraio, questa volta il palazzetto viene giù assicurato. Unfinished business. Giusto per. E che fate? Vi perdete Big Andrew? TG Giacomo Giglio? Mickey Hunter? Horus, Crimi, Explosive, Black Bull, ci ho ricordato bene, scusa se non davo. Black Bull. E chi ne ha più ne metta? Ditemi voi. Vale la pena? No, ragazzi. Vale la pena? Se fossi in voi, io ho la pena di provare, ce la metterei. Un piccolo sforzo. Un piccolo passo o un grande passo, dipende dai punti di vista, per la crescita di tutti, che sia la crescita del vestito italiano, che sia la crescita particolarmente dell'FCW, e se potete anche salutatemi da parte mia Giacomo Giglio, salutatemi da parte mia Big Andrew, vabbè, questo ovviamente mi rivolgo ovviamente a chi sta guardando e a chi sta ascoltando che andrà a vedere lo show dell'FCW, non mi rivolgo, sto parlando con l'ospite, logicamente passo pure per pazzo, però mi sto rivolgendo a chi ascolterà, ovviamente un piccolo e un grande passo verso la crescita dell'FCW. Comunque ringrazio ancora il Big Andrew, grazie ancora di aver accettato i nostri video. Grazie a te, Piero. Ringrazio ovviamente l'FCW, ringrazio Giacomo Giglio in particolare, e lo saluto, rimane sempre, rimane ed è un grande amico. Da Pino Fascione nell'ora del wrestling è tutto, alla prossima, e ricordate sempre, solo grandi interviste sull'ora del wrestling, provare per credere e diffidate dalle imitazioni. Buona serata a tutti, grazie dall'ora del wrestling. Sento il ruggito del cuore nel petto, occhi di tigre in cerca di un tetto, sul ring si combatte senza paura, la folla esplode come tempesta pura, la luce sfavilla nei guantoni, adrenalina scorre come bolleoni, ogni colpo un tuono che squarcia il cielo, non c'è spazio per dubbio cielo. Come stelle.